Allora, parlavo prima con Liliana, la curatrice appunto di questa antologia, che mi ha raccontato come il filo rosso che unisce questi racconti è esplorare l'adolescenza, le relazioni. Tu come hai sviluppato questo argomento? Allora, diciamo che mi è venuto inevitabile comunque pensare a delle situazioni che un po' ricalcassero quello che ho vissuto nella mia vita. E la mia storia parla di queste due amiche, sin dall'infanzia, che vivono ogni esperienza confrontandosi, come si fa quando si è ragazzine, e quindi cercano sempre nell'altra significativa un po' quella comparazione, tu come avresti fatto, tu a questo punto ci sei già arrivata, eccetera. E così succede in tutte le nuove scoperte, compresa quella sessuale, del corpo maschile, dell'amore. A un certo punto una delle due si fidanza con un ragazzo molto prevaricante. Diciamo che c'è una frase che io ho inserito nel fumetto, che è prendi una bella ragazza coltivala, questa è la frase come l'ho sentita dire da un ragazzo molto tempo fa. Diciamo che questo è stato un momento nella mia vita in cui ho iniziato ad avere paura di venire, diciamo, farcita da quello che un ragazzo voleva da me. E quindi la mia storia parla di come poi un rapporto d'amore dove l'altro cerca di farti diventare quello che vuole va anche a inquinare le amicizie. Le tue amicizie, i tuoi rapporti, quello che pensi della tua vita. Senti, questo è un lavoro corale, no? Perché appunto siete cinque autrici, cinque voci. Ti sei rapportata con loro o hai fatto un lavoro autonomo per conto tuo, ecco? Allora, credo che tutte abbiamo parlato di cose molto personali, quindi al di là di aggiornare le altre su quello che stavamo facendo e di quello che avremmo raccontato, siamo tutte molto entrate nella nostra storia, quindi per quanto mi riguarda io l'ho vissuta in una maniera molto personale e molto solitaria e penso che sia stato così anche per le altre perché siamo andate, credo, a scavare in cose che sentivamo molto nostre, quindi un confronto costante forse non sarebbe stato nemmeno troppo utile. Una cosa che ci tenevo a dire a proposito appunto dei rapporti anche del rapporto di amicizia tra le mie due protagoniste, è che io ho cercato di non rendere nessuno dei personaggi totalmente buoni, perché penso che nell'amore molto spesso abbiamo dei meccanismi di controllo, quindi anche tra queste due amiche diciamo che entrambe fanno leva su quello che l'altra non ha, quindi questa cosa c'è molto. Cioè, credo che ci sia spesso all'interno anche di rapporti tra amiche, insomma, in tutti i nostri rapporti, noi avendo paura di perdere qualcuno, spesso, insomma, cerchiamo di dominarlo. Poi, ovviamente, la figura negativa che emerge è quella del ragazzo che cerca di avere un dominio intellettuale e ha un giudizio sulla libertà sessuale che, insomma, a nessuno verrebbe in mente di recriminare a un ragazzo.